Last Beach Show. Ciao a tutti da Simone Bertasa, questa è la puntata numero 0 di Last Beach Show. In questa puntata parleremo di Terry Nordgarden, di Silver Mount Zion, di Sylvia's Magic Hands, di Mark Folkert e soprattutto vedremo due modi di fare interviste. Proporremo infatti un'intervista a Terry Nordgarden, folk writer norvegese, e una a Ephraim, leader degli psichedelici canadesi a Silver Mount Zion. Due interviste che sapranno suggerirvi due modi per non fare il mestiere del giornalista radiofonico. Iniziamo la puntata di oggi con un ascolto. Terry Nordgarden, The Path of Love. I'm here to say that I completely understand your decision. I sense your urge and your need for some sort of liberation. But you must admit that there's more to this, there's more on your mind. Me being paranoid, trying to be clear in thoughts, I try so hard to separate these two kinds, and I pray we will walk together along this path of shall kill the pain, kill the lies, the preventers of being real. Of love will come, of love we are leaving, trying to follow the stony path called life, trying to add some sort of meaning. But I must admit, I'm so scared of this, I'm dying to find relief. And you must admit that there's more to this, there's more than our eyes can see. And I pray we will walk together along this path of love. We won't need no one but the one that we truly. Incontrai Terry Nordgarden in una fresca serata della primavera del 2010. Lui correva come un novello Rocky, con una tuta che gli copriva il capo e delle cuffie che trasmettevano la musica di Bruce Springsteen. lo fermai e gli chiesi un'intervista. E lui, nonostante si stesse preparando così per il suo imminente concerto in un castello medievale, accettò e mi lasciò le dichiarazioni che potrete ascoltare qui a seguire. Sono arrivato in Italia 10 anni fa e sono rimasto 3 anni a vivere proprio. Prima sono arrivato a Bologna perché avevo un amico di Mantova che studiava a Bologna, quindi mi ha aiutato a fare l'entrata, diciamo. Non parlavo la lingua, quindi come sappiamo l'italiano sono i migliori a parlare inglese, quindi nei primi 2 o 3 mesi ho fatto un gran culo a imparare, perché comunque avete lo stesso problema che avete tutti, tutta la TV doppiata, censurata, berlusconianizzata, sì. E tanti italiani dicono anche abbiamo doppiatori migliori del mondo, vaffanculo. Mettete sottotitoli, imparate lingue molto più facilmente anche, e sentite la voce originale di Robert De Niro, che secondo me ha un buon 30-40% della sua arte e la sua voce, come dicono tanti anche, no? La voce rifletta la tua vita, la tua storia. Non puoi togliere la voce di una persona. Se io stessi qui a parlare con una voce di un italiano perfetto così, sarebbe una cosa noiosa. Sono andato a vedere Blair Witch Project in italiano, mi sono addormentato. Una volta non avevo la data, allora suonavo in via Zamboni a Bologna. Insegnavo dopo un po', dopo aver imparato l'italiano giusto così, almeno necessario, ho iniziato a insegnare un po' di inglese a vari italiani. No, quello che succede quando tu, sicuramente in qualsiasi lavoro, sei sempre in giro, becchi una persona lì, becchi una persona là, quindi pian piano inizia a suonare anche nei locali in giro per Bologna, tanti locali piccoli, ma anche tipo come si chiama il Covo. Poi tramite uno di questi contatti ho trovato una data a Firenze e lì ho conosciuto la ex ragazza, quella volta era la ragazza di Paolo Benvenuti. Quindi lei ha portato il mio demo a lui e lui ha sentito e ha detto vieni a Firenze, suonaci un concerto così e poi vediamo. E lui è piaciuto, voleva produrmi, allora mi sono trasferito a Firenze a vivere lì per un paio di anni per seguire, diciamo, il progetto di registrare il mio primo disco, eccetera. E così, nonostante le male parole dette da Nordgarden sull'Italia, Nordgarden diventò famoso proprio in Italia, iniziando a suonare come chitarrista sfattone nella Via dei Tossici di Bologna, via Zamboni. Fu così che mi sorse il dubbio di chiedergli qualcos'altro riguardo all'Italia, se lui per caso preferisse o meno l'Italia rispetto ai paesi del nord, visto questa sua attitudine sicuramente poco simpatica, chissà perché, nei confronti della nostra cultura. Sei tornato anche a suonare nel nord Europa, sì. Sei più felice quando suoni nel nord Europa o qui in Italia? Cosa cambia? Più felice in Italia. Sì, sì, perché? Sì. Mi sento più a mio agio, mi sento a casa, cioè nel senso mi sento quasi più a casa qui che in Norvegia. Mangi bene in Italia? Ci sono delle cose essenziali qui in Italia, avete dei vini fantastici, del cibo fantastico, delle donne bellissime, e avete un'estate fantastica, primavera che viene magari un mese anche prima della primavera in Norvegia, tutte queste cose, state molto fuori, si vive bene, è per quello che... E qual è il tuo vino preferito? Ci sono tanti, dipende dal momento. No? Possiamo dire Sassicaia, che non è che ti capita spesso, però sono stato fortunato una volta a sentire Sassicaia 97. Gli è difficile continuare a fare il musicista se si è troppo soggetti a cose tipo il vino, la perdizione. Non avrei perso tempo per queste cose. No, quello migliora solo il benessere. Bisogna stare bene anche, no? E bisogna combinare queste cose. Stare male, stare bene. Nella scena norvegese hai dei nomi, non so, di amici o di musicisti che per te tra poco conosceremo tutti? Io spero di sì loro, perché hanno lavorato veramente anni e anni a fare il loro primo disco. Finalmente esce il loro disco questo aprile in Norvegia, poi cerco di aiutarli anche in Italia, vediamo. Se andate su myspace.com/Nordgarden sono fra i miei amici, si chiamano Marik Folke. ho scritto MARGFYKET. Sono un gruppo misto fra country americano, tombeziana e anche un tocco di musica popolare norvegese. Bene, violino, banjo. E quindi, cari amici, non perdiamo tempo e seguiamo il consiglio di Terry Nordgarden ascoltando Marg Folket dalla Norvegia, questo gruppo che presenta il brano Mrs. Innocence. Went out to get some magic cigarettes. She gone drifting, her head in the clouds, and they blew away. What goes up must come down, one way or another. It's the same every time. Wheels within wheels, trying to lose that Sunday feeling. Friday nights are way too long for her to leave it alone. Tongue tied, hands trembling, her bed is sailing out on the seas of war. She's sinking slowly, heading for the bottom, and the colors are fading. Her life seems all black and white now, wishful thinking, the best way to go down. Find an excuse, Mrs. Innocence. Like a child you never learn till the damage is done. Trying to lose that Sunday feeling. She has fallen in between, and the river says, long gone, yes it's long gone, I guess it's long gone, Mrs. Innocence. Long gone, yes it's long gone, I guess it's long gone, Mrs. Innocence. Long gone, yes it's long gone, I guess it's long gone, Mrs. Innocence. Long gone, yes it's long gone, I guess it's long gone, Mrs. Innocence. Abbiamo ascoltato Marg Folket dalla Norvegia con Mrs. Innocence, quindi all'interno dell'intervista lo-fi molto a bassa fedeltà fatta così per strada a Terry Nordgarden, viene spontaneo chiedere a Terry Nordgarden cosa pensa della musica che c'è in Norvegia, se è bella questa nuova wave musicale norvegese, quali caratteristiche possa mai avere. In Norvegia c'è più pop nella scena alternativa o più rock? come lo vedi? Un po' come qui in Italia, un po' indie rock, così tutte quelle cose merda che arriva dall'Inghilterra, diciamo. Esatto, quindi secondo te gli inglesi nella musica non hanno questa superiorità sul resto d'Europa? Hanno il potere, perché sono usciti i Beatles e Rolling Stones, dopo quello hanno preso la ierarchia e alla fine secondo me fa pagare. Nel senso, Beatles e Rolling Stones grandissimi, però quelli gruppi che escono ultimamente troppo hype. Questa è una parola che cerco di spiegare a volte in Italia, non si usa molto, però secondo me è una parola importante, hype, quando giornali, televisione, i media puntano tutto su questo gruppo qui, questo gruppo qua, che alla fine diventa una cosa oltre la musica, no? Dai giornali NME, no? Quella NME inglese, Mojo, eccetera. Mojo è più credibile, NME fa tutto a puntare su un gruppo e farli diventare grandi, come schifo, come si chiamano? Wombats, mi fa cagare. Quindi Terry Nordgarden, parlando della sua Norvegia, riconosce il fatto che spesso ci sia del derivativismo di matrice anglosassone, ossia tutti i gruppi si riferiscono a un certo tipo di musica inglese. Così tutte quelle cose merda che arriva dall'Inghilterra, diciamo. Peccato però che in questa sua disamina contro la musica inglese e la cultura musicale inglese, Terry Nordgarden non consideri un fatto che il gruppo spalla della serata in questione, della serata in cui io ho incontrato Terry Nordgarden, fosse appunto inglese, ossia è un gruppo italiano, ma il cantante si chiama James Wood, che è il cantante dei Sylvia's Magic Hands. Sylvia's Magic Hands, che venuti a conoscenza di queste opinioni forti di Terry Nordgarden sull'Inghilterra. Si sono un filo incazzati. Tu sei il cantante di Sylvia's Magic Hands. Come ti chiami? James Wood. E da dove vieni? Cesena adesso. Cosa pensi della musica norvegese? Non la conosco proprio. Secondo me non vale una lira. Non vale una lira? No, no, questo non la fa neanche. Questo chi? Questo lo sai chi? Io non voglio nominarlo. Tutta la merda che viene dall'Inghilterra per te che cos'è? Sono io. Quanto tempo sarai in tour insieme a Nordgarden? Spero poco. Ma basta! Grazie. Grazie. Pertanto l'affinità artistica tra Sylvia's Magic Hands e Terry Nordgarden finì proprio la sera in cui io li incontrai, e da qui nasce la prima lezione per fare bene il mestiere di giornalista: mai usare le parole della gente per mettere persone contro persone, per mettere musicisti contro musicisti. Ma ora paragoniamo anche musicalmente Nordgarden con Sylvia's Magic Hands. Ci ascoltiamo nell'ordine a Soldier's Lament di Sylvia's Magic Hands, gruppo italiano che vive a Cesena ma ha il cantante inglese, e un brano di Nordgarden intitolato Oh Brother. Yeah. this road and I'm trying to get a ride to bring me over these mountains and on to the other side. Well now, oh brother, can you help me through? Oh, can't you see I'm just like you? But all these people pass and their faces cut in stone. The city left them faithless and helplessly alone. And now, oh, brother, can you help me through? Oh, can't you see I'm just like you? Trying to get a ride to bring me over these mountains and on to the other side. Well now, oh brother, can you help me through? Oh, can't you see I'm just like you? Well, this life is one long ride and every day is another stride. We all need someone to help us to the other side. Oh brother, can you help me through? Can't you see I'm just like you? Man, he once said, you can do what you want to do, but you ought to do to others like you want them to do to you. Oh, brother, can you help me through? Oh, can't you see I'm just like you? Oh, brother, can you help me through? Oh, can't you see I'm just like you? Oh, brother, can you help me through? I'm just like you. Oh, brother, can you help me through? E quindi abbiamo ascoltato Sylvia's Magic Hands e Terry Northgarden in successione con due brani intitolati A Soldier's Lament e Oh Brother, e nella sicurezza che Terry Northgarden non rilascerà mai più un'intervista al sottoscritto, noi lo ringraziamo. Grazie a te. E passiamo alla seconda parte di The Last Beat Show, dedicata a Silver Mount Zion. E così lasciamo la prima parte di The Last Beat Show, puntata numero 0, e salutiamo il buon Northgarden. Certo, ci siamo dimenticati di dire che ha fatto 3 album, dove ha suonato, dove suonerà, ma tutto questo potete trovarlo su www.northgarden.info. La cosa importante da dire è che grazie a lui abbiamo dimostrato come l'utilizzo strumentale delle parole può essere pane per i giornalisti e talvolta può essere anche causa di numerosi problemi e fallimenti, insomma qualcosa da non fare. E per entrare in questo finale di puntata parleremo di Silver Mount Zion, progetto canadese, forse uno degli ultimi gruppi veramente politici che ci sono su questo pianeta, il pianeta della musica indie, appunto per dimostrare un'altra cosa che un giornalista serio non deve assolutamente fare, ossia dire le cose come stanno. Rimandandovi al sito e alla pagina MySpace di A Silver Mount Zion per conoscerne di più, e anche al sito dell'etichetta loro, la Constellation, un'etichetta canadese di Montreal che si occupa di musica psichedelica indipendente, assolutamente non convenzionale e, a mio modo di vedere, bellissima. Comunque, dicevamo, a Silver Mount Zion il loro leader si chiama Ephraim e mi è capitato recentemente di incontrarlo per un'intervista presso un locale che si chiama Twiggy a Varese, presso il quale lo stesso Ephraim con Silver Mount Zion faceva un concerto in Italia a più di 2 anni dal loro ultimo live nella penisola. Sempre con la musica di A Silver Mount Zion sotto la mia voce, come in tutta questa puntata, e anche sotto alla voce di Ephraim, sentiamo quindi alcune opinioni molto molto interessanti di questo musicista canadese che di certo non le manda a dire e vuole esprimere le sue opinioni anche riguardo alla politica, cosa che nella musica è sempre più rara, e anche riguardo a esponenti molto molto importanti della cultura cattolica e anche riguardo a, diciamo, degli status problematici del nostro terzo millennio appena iniziato. Lasciamo così spazio alle parole di Ephraim, che ci parla del mondo. Per ragioni di opportunità, di scelta artistica e anche di scelta culturale, abbiamo deciso di lasciare le parole di Ephraim nella lingua originale, ossia l'inglese, un po' per insegnarvi ad ascoltare l'inglese e anche un po' per creare molti meno problemi alla nostra emittente www.zuikiradio.eu. Buon divertimento. Ok, it's 11th of April. Do you speak English? Yeah. Okay, we are talking to Ephraim from Silver Mount Zion. Yeah. Do you play in Italy once every year, more or less? Once every 2 years. Do you like this land? Yeah, we do, although we worry about it. Your country, like, makes us worry. Why? Because the people are really lovely, but your political situation is completely fucked up. I mean, it's mostly confusing to us. I mean, we have the same feeling when we go to America. We really love Americans. Americans are good people, right? But the country's completely fucked up, and it always has been, you know? And so it's this similar sense of worry. But when we come to Italy, you know, obviously we live right next door to America, so we know everything about their politics. We know it's culturally, we understand. And when we come to Italy, there's always a level of, like, confusion, you know, because it's very complicated. The situation is very complicated. The only thing that's clear is that your entire system is broken, and that, you know. Do you think it's mafia the bigger problem in here, or people? I mean, it's none of my business. I mean, I don't know anything about the mafia. It seems to me that the church is a bigger problem than the mafia, no? That's the same problem. Yeah. And I think I understand a little, you know. But whatever the case, it's you know, it's a strange thing. We really love it here, and we really love the people here. And then on one hand, you're blessed with a beautiful country. The landscape is beautiful, the weather is beautiful. I mean, you know, you have a very, very old culture, and you have a confidence in that culture, which, as a North American, as a Canadian, and from a young culture, is, like, interesting. You know, I can imagine, you know, it's where, you know, we hate nationalism in all its forms, but at the same time, you know, it's nice to meet people who at least they have a history, you know? So on one hand, you're blessed with all these things, you know? On the other hand, you're in total fucking deep shit, and you have been forever, you know? It's crazy. And about church, there's a big scandal right now about pedophiles. Could you say something about the Pope that says that pedophiles must be judged in the church and not from a normal court? Yeah, I mean, well, but that's not surprising. You know, the Catholic Church is just, I mean, I'm more insulted by that they came out at Easter and compared the criticism that they're getting about the pedophile scandal to the treatment that Jews received during the Holocaust. As a Jew, to hear that on Easter, you know, is from the fucking Catholic Church is incredibly offensive, you know? Like, Easter, you understand, right? That we get blamed for killing Jesus, you know? Easter was the time of the year that, you know, it's the same time as Passover, yeah, the Jewish holiday, and that's in Passover, the Catholic Church spread the myth that Jews kill Christian babies and make bread out of their blood. That's what happens around Easter, right? So historically, as Jews, to somehow now hear at that time of the year, especially, that the Catholic Church are somehow the same thing as Jews being mistreated from an institution that historically has mistreated Jews. It's incredibly offensive, but it's not surprising, you know? I understand. And how do you feel about the problem between Israel and Palestine? Is there a solution, in your opinion, as a Jew from Canada? I mean, for me, I'm a Jew, but I consider myself, this is complicated, but I consider myself a diaspora Jew. Do you understand? I'm proud of the history that Jews had before they had a homeland. That homeland is not my homeland. I feel no attachment to it. The best thing Jews ever did was done under terrible conditions without a homeland. I mean, you know, I don't believe in nations, so I, as a Jew, I don't want a fucking nation, you know? So as a starting point, I reject the state of Israel, you know? But then you're asking for a solution. The solution is very simple. The state of Israel needs to withdraw their citizens and their soldiers and their secret police and their secret agents and their spies from the occupied territories. That's it. That's all. That's the solution. And you have to know that in Italy, when we talk about this problem between Israel and Palestine, we always connect the problem of Israel and Palestine with the problem of Holocaust, like a political choice to cover the bad things that are going on now. Yeah, yeah. But I mean, there's been a concerted effort on the part, you know, there's a very strong pro-Israeli lobby and an Israeli lobby that tries to make those connections all the time, you know, that this somehow has something to do with the Holocaust and that this is a reparation for what happened in the Holocaust and therefore you cannot criticize the state of Israel in any way, shape, or form. I mean, it's bullshit. It's nonsense. As a Jew, I find it offensive. At the same time, when I hear people who aren't Jews talk very easily about, you know, Israelis and Jews and this and that and the other, I also get offended, you know? So it's complicated. You know, as a Jew, I have no problem saying it's fucking bullshit, you know? The problem is around the world is that like, there should not be nobody's nation should be occupied by another nation. That's simple, you know? You know, for those of us living in wealthy Western nations, we wouldn't tolerate it, you know? We wouldn't tolerate soldiers from a different country, like roaming our streets, killing our children, you know, like all in the name of security. There's no reason to expect that any other people in the world should tolerate that. So for you, political problems are really important. Do you believe that the resolution of crisis could be a third world war? What do you mean? I don't understand the question. Because we are in a crisis, economic crisis, cultural crisis, that's a big shit around us. Yeah. Don't you think we are going to have a third world war in some way? Not a world war. I think there will be, you know, more regional wars, like smaller wars everywhere, you know, civil wars. Is this the third world war? The regional wars for feeding the economy of this? Well, I mean, I don't know. I don't care what you call it. It's going to be terrible, you know? I mean, I'm from North America. So if I look at America and I look at what would happen if their economy actually collapsed, if they entered something like the Great Depression again, but even worse, there are so many ethnic tensions, racial tensions, class tensions, regional tensions in America that it makes, you know, the former Yugoslavia, you know, seem like, like a utopia, you know what I mean? And the one thing that's for sure is Americans hate each other. They hate each other. They hate each other. They hate the rest of the world even more, you know, but they hate each other the most. So the idea, if there's any breakdown, when people actually start going hungry, when people actually start, you know, losing the wealthy lives that they've lived, there's going to be a mess down there that's unbelievable. The first thing people are going to do is attack each other, you know? That's incredibly scary, living in a city that's like an hour and a half away from the American border, you know? It's terrifying. Is Canada a peaceful land? No, it's not better. We just have less people, you know? So it's simpler. Any country with less citizens, you have less problems like that. Well, you have the same problems, but you have them on a smaller scale, you know? We have a much smaller population. And then I think there is some truth that in most of the country, winter is such a serious thing. Like, winter will kill you in Canada, you know what I mean? Like, it's not, you don't fuck with winter. There's huge months of our year that you go outside. If you don't go outside properly dressed and you don't have somewhere to be warm, you fucking die, you know? So I think the harshness of the climate in winter plays a part in, you know, people somehow have to figure out a way to get along, you know, for better or for worse. But Canada's not better than any other country. It's just different than other countries, you know? And especially America, it's not better. We have huge racial problems in Canada, huge racial problems in cities, you know? Absolutely. We have huge class problems in cities. We have the same broken system of government that you do. It's just less complicated and it's less corrupt. But, you know, we are similarly in deep shit, you know? Our economy right now is sustained by the fact that oil finally reached a high enough price that it became affordable to dig oil out of the ground in the western provinces of Canada, which is a hugely environmentally damaging enterprise. And on top of that, it's not something you can sustain your economy on. Once that oil is gone, we have nothing, you know? Do you vote? I spoil my ballot. You know what I mean? I don't vote, but anytime there's election, I go there and I write something on the ballot. Ah, okay. So you give nullo, say in Italy, yeah. For no one. Yeah. Where is the people you want to vote yeah, for? Yeah, exactly. Yeah. Where is? Yeah, yeah, exactly. And I think it's very important that if people say I'm not going to vote because I don't want to vote for anyone, I think it's very important that people, instead of just staying at home, go spoil your ballot. That at least has the possibility for some sort of political statement. Yeah, most of the people should do like you, in my opinion. Exactly. Not about a party. Yeah, yeah. But that's good. I mean, the only election I voted for was years ago. There was someone running for mayor, who his thing was he wanted to take half the city and not allow cars in that half of the city, just bicycles and delivery vehicles, right? You know, so I voted for him. You know, when there are candidates who are actually doing something, then of course vote for those candidates. But when that doesn't exist on your ballot, you need to go and spoil it. You need to go make some sort of statement, you know? Do you believe in aliens? Little green men aliens? No. I mean, you know, I can't. Me personally, I can't think of, when I think about, I don't, the hugeness of space, I find, makes me anxious. So I don't spend a lot of time thinking about it. Oh, there's a car? Do you have a car? I do have a car, yeah. Which car? I bought for $200, it's an American car, it's a Dodge Caravan. It's like a very shitty minivan. But it was $200. Do you go on vacation sometimes? In my car? No. No, but no. Do you go around the world playing? Or sometimes just for fun? I don't really go on vacation. No. Which is the land you want to know? The most? Where do I want to go? I mean, I've never really been to South America. I would like to see South America. I mean, I'd like to see the whole world, you know? Yeah. Yeah. E questa era la voce di Ephraim Menak, il leader di Silver Mount Zion. Nella speranza che voi abbiate capito tutte le cose che ha detto questo musicista, noi vi rimandiamo alla prossima puntata di The Last Beat Show e vi lasciamo con un brano estratto dall'ultimo disco di Silver Mount Zion, edito per la Constellation Records. Si chiama Collapse Traditionalis e il brano scelto si chiama Collapse Traditional, The Old Dirty Flag. E grazie a tutti di averci ascoltato. Last Beach Show.